Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Nuova grana giudiziaria per il Partito Democratico. Renato Soru, condannato a 3 anni per evasione fiscale, si dimette da segretario regionale del PD. Sentenza ingiusta, dice Grillo all'attacco. Salvini a Bologna, scontri tra centri sociali che lanciano uova e ortaggi e polizia. Il leader leghista, questa città è ostaggio dei delinquenti. Prosegue la cosiddetta rivolta della pasta scotta. I migranti di Reggio Emilia contro la qualità del cibo chiedono un cuoco pakistano. Il vice sindaco, cucinassero da soli. Camorra a Roma, 28 tra ristoranti e pizzerie confiscati al clan già sotto sequestro dal 2014, ora diventano patrimonio dello Stato. È la giornata dell'orgoglio carnivoro lanciata da Coldiretti. Centinaia di griglie accese al Lingotto e il grido di braciole alla riscossa. Milano si prepara alla finale della Champions tra Real e Atletico Madrid. La Bologna del basket in lacrime e la Virtus finisce in A2. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, 349-238-6666 per i vostri sms e per i vostri messaggi su WhatsApp. Seguite anche il nostro canale Telegram se volete, telegram.me/effettogiorno. In apertura dunque la condanna Renato Soru. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Stavolta una sentenza di primo grado a coinvolgere il PD. Il segretario regionale sardo ed europarlamentare Renato Soru è stato condannato a 3 anni di reclusione in primo grado per evasione fiscale. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Cagliari. Soru si è dimesso dalla carica di segretario PD. La procura aveva chiesto 4 anni. L'evasione sarebbe nell'ambito di un prestito tra due società da Andalas a Tiscali, tutte e due di Soru. Una sentenza ingiusta dal mio punto di vista, non me l'aspettavo, anzi mi aspettavo di essere assolto, commenta Soru. Non credo di aver commesso reati e spero che venga ribaltata la sentenza nelle altre fasi del processo. L'opposizione attacca, dal blog Beppe Grillo chiede non solo a Soru ma a tutto il PD di dimettersi e parla di epopea immorale. Per Matteo Salvini della Lega qualche mela marcia c'è in tutte le case, ma se iniziano ad essere 110 allora è un problema, perché in certe zone ci sono sistemi di potere, basti pensare alla Toscana e all'Emilia. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento e andiamo ad aggiornarvi anche sull'inchiesta di Lodi con Raffaella Calandra. Raffaella. Sì Simone, buongiorno. L'inchiesta riparte dalle mosse della difesa, ripartono da qui le indagini sulle piscine comunali di Lodi che hanno portato in carcere il sindaco Simone Ugetti, autosospeso dal PD, e che hanno riaperto un nuovo fronte di scontro, toghe e governo. Il difensore del principale indagato presenta infatti istanza di scarcerazione o almeno di domiciliari e attesa già per oggi. In realtà la decisione del GIP potrebbe arrivare, secondo l'avvocato Roveda, venerdì prossimo e sarà in ogni caso una decisione con prevedibili ricadute anche politiche, visto che proprio sull'ordinanza di custodia cautelare in carcere per turbativa d'asta, un caso a detta di esperti forse senza precedenti, si è aperto un altrettanto clamoroso scontro ieri all'interno del CSM, poi a fatica ricucito. Al di là di questo, Ugetti assicura di volersi difendere punto per punto, anche se ammette gli errori commessi, e di sicuro contro di lui pesa ora soprattutto gli inviti alla riservatezza registrati in un colloquio con funzionari della Guardia di Finanza e la richiesta di formattazione del PC comunale per togliere, secondo l'accusa, le tracce del bando incriminato. E per questo, così velocemente, solo un mese dopo la denuncia della funzionaria comunale, il GIP ha firmato le sue 29 pagine dell'ordinanza che hanno portato Ugetti in carcere. E per ora è tutto. E grazie anche a Raffaella Calandra per questo aggiornamento. Sempre vicende che incrociano cronaca giudiziaria e cronaca politica. Le elezioni amministrative del prossimo giugno bloccano il processo nel quale il governatore lombardo Roberto Maroni è imputato con altre persone per turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente e induzione indebita per presunte pressioni per far ottenere un lavoro e un viaggio a Tokyo a 2 ex collaboratrici. Lo ha deciso il Tribunale di Milano, che ha accolto una richiesta di rinvio e sospensione del procedimento perché Maroni è capolista a Varese. Si torna in aula il 23 di giugno. Andiamo a Bologna, dove ci sono stati scontri per la visita di Matteo Salvini. Federico Mascagni, buongiorno, dove ti trovi? Buongiorno. Cosa succede? In questo momento sono davanti alla sede di ingegneria in Via della Repubblica a Bologna, dove si sono tenuti questi scontri. I cartelli inalberati dagli studenti che hanno lanciato uova contro la macchina dove Salvini poi si è allontanato, erano il tenore come Lega Ladrona Bologna non ti vuole e altri slogan. In realtà gli scontri non hanno sortito effetti particolarmente drammatici, in questo momento sta stazionando il pullman di Lucia Borgonzoni, candidata a sindaco per la Lega, davanti a Ingegneria, dove appunto Matteo Salvini è andato a consegnare una copia del suo libro Secondo Matteo al rettore Ubertini. Per ora comunque la situazione è calma, da Bologna è tutto. Ti ringrazio Federico Mascagni per questo aggiornamento. Oggi ci sono delle indicazioni che arrivano dall'Istat sulla crescita economica e non solo quello. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Appuntamento mensile, quello dell'Istat, con i dati relativi all'andamento dell'economia, uno spaccato di fatto sulle tendenze in Europa e nel nostro paese, trend che in generale resta positivo ma in un quadro di grande incertezza. Nello specifico l'Istat spiega che in un contesto europeo caratterizzato da una crescita significativa del PIL, l'economia italiana presenta segnali positivi ma l'evoluzione del clima di fiducia rimane incerta e vi sono rischi di un rallentamento dell'attività economica nel breve periodo. I segnali positivi sono relativi al miglioramento della produzione industriale, al consolidamento dell'occupazione permanente e alla crescita del potere d'acquisto delle famiglie. Di occupazione in un certo senso si è parlato, Simone, anche questa mattina a Palazzo Chigi durante la presentazione dell'ultima nata in casa Alfa Romeo, la nuova Giulia, presenti il presidente di FCA Elcan e la di Marchionne. Dal presidente del Consiglio Renzi la soddisfazione per un prodotto made in Italy e che contribuisce all'occupazione negli stabilimenti italiani. Sentiamo questo passaggio. Cassino c'è, con tutto l'orgoglio, la competenza, la passione, la dedizione e la tenacia delle lavoratrici e dei lavoratori di Cassino. In prospettiva Pomigliano d'Arco, che già sta lavorando, ma Alfa Romeo passerà da 4.000, porterà, provocherà l'aumento di posti di lavoro da 4.300 a 7.700 entro il 2018. 4.300 a 7.700 persone, quindi migliaia di posti, centinaia di posti di lavoro in più tra Cassino e Pomigliano. E giornata intensa intanto quella di oggi per il Premier, alle 14 incontro sempre a Palazzo Chigi con la cancelliera Merkel e poi nel pomeriggio convegno al Campidoglio con i vertici europei Schulz, Tusk e Juncker, immigrazione con il caso Brennero ed economia al centro dei colloqui. E da Roma è tutto. Ti ringrazio Vincenzo Miglietta. Vincenzo Miglietta che ci parlava dei dati e delle indicazioni diffuse dall'Istat, oggi sono arrivate anche quelle della Banca Centrale Europea che nel suo bollettino economico parla di un'inflazione ancora negativa e che risalirà dopo l'estate, un'inflazione zero che non deve trasferirsi sui salari e di una ripresa che prosegue ma con dei rischi, mentre il quantitative easing, ossia l'acquisto di titoli varato dalla Banca Centrale Europea, dovrebbe spingere la domanda. Per quanto riguarda l'occupazione si dice che è in crescita da 2 anni e mezzo ed è aumentata di un ulteriore 0,3% sul periodo precedente. È cominciata poco dopo le 10:30 l'assemblea di Veneto Banca, la prima dopo la trasformazione in SPA, presenti personalmente o con delega 6.154 soci, pari al 30,2% del capitale sociale. Per ristrutturare una banca servono 3 anni, io l'ho presa in mano 8 mesi fa, dice l'amministratore delegato Cristiano Carlos. Pare che appena cominciata in assemblea siano partiti fischi, urla e contestazioni e il presidente uscente Pierluigi Bolla abbia minacciato la sospensione. I 2 chilometri di coda fatti per giungere al Palexpo di Marghera hanno innervosito ancora di più i soci, arrivati per l'approvazione del bilancio 2015 e il rinnovo del CDA. 2 i fronti che si stanno dando battaglia, quello del CDA in carica che propone la conferma dell'imprenditore Bolla alla presidenza e l'altro, sostenuto dalle 2 associazioni di azionisti, che sostiene l'avvocato torinese Stefano Ambrosini. I primi accusano i secondi di aver lasciato un buco da centinaia di milioni nei conti dell'istituto. I secondi accusano i primi di aver goduto i favori della banca sotto la presidenza di Consoli, già iscritto nel registro degli indagati della Procura della Repubblica, e di strumentalizzare la lettera della BCE, in cui Francoforte ha messo l'accento sui requisiti di onorabilità che devono avere i futuri consiglieri. Nel frattempo la Consob ha recapitato la notifica di chiusura delle ispezioni, 5 i punti critici letti in assemblea, e ha anche ordinato al CDA di riunirsi entro 1 settimana per trattare i termini di chi avrà diritti o chi potrà accedere all'operazione di aumento di capitale da 1 miliardo di euro. Un aumento vitale e dall'esito tutt'altro che scontato, e il Fondo Atlante sembra sempre più vicino. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche del Fondo Atlante ha parlato questa mattina il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Dice ha dei limiti il Fondo Atlante, ma può sbloccare il mercato dei non performing loans, ossia dei crediti deteriorati, delle cosiddette sofferenze, e un recupero crediti più rapido, ha detto, può dimezzare la quota delle sofferenze. Così il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Ci spostiamo a Londra, dove oggi si vota per eleggere il sindaco e si vota anche in altri 123 comuni. Sentiamo. Homes, clean air, vision. Stop immigration now. London for all. 12 candidati, alcuni decisamente improbabili. Legalize tax cannabis. Woo, revolution baby! Ma tutti in corsa per diventare il primo cittadino di Londra, con le sfide della metropoli più multietnica del mondo. Million new homes. For all Londoners. In quello che ha chiamato Super Thursday di oggi, seggi aperti per quasi 6 milioni di elettori londinesi, mentre in 124 comuni britannici si votano le amministrative, primo vero banco di prova per i laburisti di Jeremy Corbyn in vista delle politiche del 2020. Se l'attuale sindaco di Londra Boris Johnson lascia la poltrona per concentrarsi sul 10 di Downing Street, a contendersi realmente le chiavi di City Hall sono due nemici giurati. Hello, I'm Zach Goldsmith and I'm campaigning to be the Conservative mayoral candidate. Zach Goldsmith, il Hugh Grant della politica britannica, figlio di un miliardario, rappresentante dell'elite conservatrice, ex giornalista di ambiente ed anti-europeista. Contro I grew up on this council estate. Il laburista Sadiq Khan, musulmano di origini pakistane, ragazzo dei quartieri popolari, figlio di un autista di autobus, avvocato per i diritti umani, già sottosegretario alla comunità e ai trasporti del governo Brown e anti-Brexit. Sort out the transport costs. Uno o l'altro, i londinesi chiedono la riduzione dell'esoso costo dei trasporti e soprattutto più case che possano permettersi non solo i milionari stranieri. Il nome del terzo sindaco di Londra si saprà solo domani. Intanto, se le proiezioni ci stanno azzeccando, Londra potrebbe risvegliarsi con un primo cittadino musulmano. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. Restiamo all'estero per andare in Siria, ad Aleppo. Finalmente qualche ora di tranquillità per Aleppo. Nonostante il cessate il fuoco concordato nel febbraio scorso, infatti, dal 22 di aprile la città ha subito i peggiori bombardamenti dei 5 anni di guerra in Siria. Così almeno li ha definiti il capo del Dipartimento Politico dell'ONU, chiedendo di portare i responsabili davanti alla Corte Penale Internazionale. Se mai accadrà, però, non sarà facile dirimere tra le responsabilità dell'esercito di Assad e quelle dei suoi oppositori. La tregua, comunque, già accettata da Assad, non è stata formalmente accolta dai ribelli al regime, ma sostiene il ministro della difesa russo che sono già una 50 i gruppi di opposizione che in tutta la Siria hanno abbassato le armi. Peccato però che troppe volte gli oppositori si mescolino con i terroristi, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, riproponendo la tesi con cui Mosca si era rifiutata finora di chiedere al presidente siriano di interrompere i raid su Aleppo. Ma anche Washington adesso è preoccupata dalle notizie di saldatura tra ribelli islamici moderati ed estremisti legati ad Al-Qaeda. La tregua congela le posizioni in attesa di nuovi negoziati. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo allo sport, iniziando però in questo caso non dal calcio, ci arriveremo tra un attimo e soprattutto a come Milano si sta preparando ad ospitare la finale di Champions League, ma prima Dario Ricci bisogna parlare di un fatto storico, la Virtus Bologna che finisce in A2, parliamo di basket. Eh sì, è davvero evento triste, almeno per quella metà di Bologna legata alle Vunnere, perché l'altra metà, targata Fortitudo, starà godendo come un riccio, permettimi l'espressione, starà magari anche assaporando il prossimo derby in Lega 2, sempre che poi Fortitudini non vengano promossi. Ma certo è un fatto storico, perché finiscono in A2 15 scudetti, 8 Coppe Italia, 2 Coppe Campioni, una Coppa delle Coppe, la squadra che nell'immaginario di noi appassionati di basket, Simone, è quella di Danilovic e del grande Ettore Messina, no? Che adesso è seduto su altre, su ben altre panchine. Ebbene, un crollo storico, sembrava too big to fail, no? Come si dice anche nel mondo della finanza, non sarebbe mai potuto accadere, invece è accaduto, e anche se poi alla fine i virtuzini hanno provato a reagire nelle ultime partite, ma la sconfitta di ieri a Reggio Emilia ha sancito questa storica retrocessione. Poi più avanti ci faremo dire come se la sente in questo momento, come la vive Andrea Mingardi, cantante virtusino doc, e vedremo che cosa ci racconta. Intanto Dario, vorrei parlare con te di Milano, appunto, di come si sta preparando a questa finale di Champions, che quindi sarà spagnola. Sì, spagnolissima direi, madridista più di ogni altra, perché per la seconda volta in 3 anni sarà derby di Madrid in finale, record incredibile, Real Madrid contro Atletico Madrid. Ebbene, noi milanesi saremo spettatori, ma quanto mai interessati, perché sarà una grande festa del calcio, una grande festa della Champions. Campi di calcetto vicino al Castello Sforzesco, ci dovrebbe essere anche un campetto per un 2 contro 2, lo si sta allestendo in cima alle torri in piazza Gaia Aulenti, quindi attenzione a mandare il pallone di sotto, perché poi tocca andarla a riprendere. Insomma, una grande festa del calcio, questa deve essere la Champions, e Milano è pronta ad accoglierla. Grazie Dario, grazie Dario Ricci di Sport. Come sempre si tornerà a parlare a partire dalle 14 in tutti i convocati. Noi adesso sentiamo che cosa succede sulle strade. Nella seconda parte della trasmissione torneremo su una vicenda della quale ci siamo già occupati, la cosiddetta rivolta della pasta scotta, quella 50ina di immigrati pakistani che a Reggio Emilia dicono no, il riso è troppo acquoso, la pasta troppo scotta, la mensa non ci piace, e l'amministrazione di Reggio Emilia si sta un po' irritando per questa cosa. Avremo ospite il vice sindaco, parleremo di questi sequestri di Camorra a Roma, 28 locali tra ristoranti e pizzerie, traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della nuova grana giudiziaria per il PD, con la condanna a 3 anni per evasione fiscale per Renato Soru. Abbiamo parlato delle contestazioni per Salvini a Bologna, degli scontri tra polizia e centri sociali. Abbiamo parlato di sport, con Milano che si prepara alla finale della Champions tra Real e Atletico Madrid, e siamo andati anche all'estero parlando delle elezioni in arrivo a Londra, della crisi umanitaria in Siria ad Aleppo. Adesso torniamo ad occuparci di migranti, e lo facciamo con una vicenda della quale ci siamo già occupati nei giorni scorsi, che arriva da Reggio Emilia, dove un gruppo di immigrati pakistani accolto in strutture di accoglienza di vario genere sta protestando per la qualità del cibo. Abbiamo visto che c'è stata un'evoluzione, perché inizialmente era pasta scotta, riso acquoso. Adesso leggo dalle cronache che riferisce il Resto il Carlino, Abdul Basi, 25 anni, dice che c'è troppa acqua nel riso e la pasta è troppo dura, quindi evidentemente troppo al dente. Altri si lamentano che c'è troppo couscous e non ci sono gli spaghetti, vorremmo anche assaggiare la pasta. Matteo Sassi, vice sindaco di Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno. Lei ha detto, cucinatevi da soli. Sì, è chiaro che questa vicenda è stata molto strumentalizzata da alcune forze politiche, e dunque noi abbiamo inteso che fosse necessario intervenire per riportare la discussione nella giusta dimensione, ovvero i profughi hanno il sacrosanto diritto di essere accolti, vengono utilizzate delle risorse che sono per lo più europee per finanziare questo piano di accoglienza, e quindi dietro a queste vicende ci sono i drammi che vediamo, ahimè, ogni giorno al largo del Mediterraneo, e devono essere accolti con dignità, come le tante città del nostro paese stanno facendo, al nord come al sud. Questa vicenda è stata largamente strumentalizzata. Noi ci teniamo a dire che la cittadinanza attiva riguarda anche i profughi, quindi non sono solo dei soggetti bisognosi di aiuto, ma devono, come sacrosanto, riuscire nonostante tutto a dare anche loro qualcosa alla comunità. Abbiamo molti progetti di volontariato avviati con i profughi, ad esempio, e per questo ci siamo permessi di dire perché non coinvolgere alcuni di loro, come tra l'altro accade in molte realtà anche nella nostra città, ad esempio nei gruppi appartamento. Perché non coinvolgerli in quella mensa dove si sono verificate, diciamo, queste proteste, e chiedere a loro di cucinare come meglio credono. Mettetevi là e cucinate voi come meglio credete, insomma, no? Certo. E magari invitate anche la cittadinanza ogni tanto a pranzare con voi, e vedrete che tanti reggiani verranno per ascoltare le loro storie. Sì, Vice Sindaco, è vero anche questo, che insomma è vero, per carità di Dio, appunto, vanno accolti col massimo della dignità possibile, ed è vero che la vicenda in parte è stata strumentalizzata, avrà pure ragione lei, però si prestava ad ampie strumentalizzazioni, insomma, no? Cioè, il concetto è sempre quello, evidente. No? Vieni qua, ti accolgo, tra l'altro pakistani, mi sembra di capire, perché vengono classificati come profughi sui giornali? Non sono profughi, sono immigrati. Sono richiedenti asilo e dunque fino a che la commissione territoriale non si pronuncerà per lo Stato sono richiedenti asilo. Questo lei ha toccato un tema vero, cioè c'è una condizione probabilmente anche di crescente insofferenza di cui il cibo è, come dire, un pretesto, poiché le commissioni territoriali, cioè quelle che devono dire sostanzialmente se quella persona è un richiedente, quel richiedente asilo ha diritto o meno al riconoscimento dello status di profugo, impiegano troppo tempo per decidere, impiegano in media 18 mesi. Quindi queste persone rimangono un anno e mezzo, insistono per così dire sul nostro territorio per un anno e mezzo in attesa che le commissioni provinciali decidano: tu sei un profugo, va bene, tu sei un immigrato e vai respinto, più o meno. Diciamo che è più o meno così, ci tengo a precisare che sono commissioni però non provinciali, sono commissioni territoriali di fatto però governate dal Ministero. Quindi questo è materia esclusiva di competenza dello Stato, non degli enti locali. La media in altri paesi è di un quarto, quindi 3-4 mesi anziché 18. È evidente che tempi più stretti significherebbe minor costo, ma soprattutto, come dire, anche una maggiore certezza del diritto per quelli che poi sono veri, diciamo, profughi. Sì, ma ci avete parlato, gli avete detto, per favore chiudiamola qua, che sta diventando un po' ridicola, in tutta sincerità. È evidente, però lei sa benissimo come giustamente i suoi colleghi facciano il loro mestiere, quindi puntualmente ogni giorno vanno a raccogliere delle informazioni e le stimolano, diciamo, quindi è complicato, spesso le campagne però anche, si chiudono. Anche loro stessero zitti, cioè dicessero mi va bene, basta che mangio, insomma. È evidente, però lei giustamente citava le dichiarazioni che oggi ci sono su un quotidiano locale, stiamo parlando di 2 o 3 persone che giustamente dal loro punto di vista hanno detto cosa pensano. Ce ne sono più di 700 che invece in questi 2 anni non hanno dato un solo problema, non ci sono stati problemi di ordine pubblico, di integrazione, non ci sono stati episodi di intolleranza, di razzismo nei quartieri. Quindi noi crediamo che questo piano di accoglienza sia stato e sia tuttora un bel piano, ecco, di accoglienza, ferme restando le criticità che dicevo, ma che dipendono dallo Stato, dall'Unione Europea e da come funzionano le cose. Io la ringrazio, grazie a Matteo Sassi, vice sindaco di Reggio Emilia, che ci ha aiutato anche a sottolineare un problema che effettivamente c'è, cioè questa accoglienza che come dire, che ha una durata, la parte di accoglienza temporanea che ha una durata evidentemente eccessiva. Nel giro d'Italia che facciamo ogni giorno, per modo di dire, poi domani parte in realtà quello vero, quello ciclistico, il giro d'Italia che facciamo ogni giorno. Adesso ci spostiamo a Roma per delle importanti confische che riguardano ristoranti, pizzerie anche in centro storico legate alla camorra. Un impero da 80 milioni di euro fatto di case, negozi, decine di bar, ristoranti e pizzerie nel centro della capitale, oltre ad auto, conti bancari e quote societarie. Il maxi sequestro di beni è stato eseguito dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma nei confronti degli imprenditori Luigi Antonio e Salvatore Righi e Alfredo Mariotti. I primi 3 in carcere dal 2014 nell'ambito dell'inchiesta Margarita, nota come Operazione Pizza Ciro, dal nome della nota catena di pizzerie della capitale oggetto di confisca. Dalle indagini coordinate dalla DDA emerge il ruolo dei fratelli Righi come stabili riciclatori per conto della camorra, al servizio in particolare del clan Contini. I numerosissimi ristoranti pizzeria già sottoposti a sequestro preventivo avevano un volume d'affari palesemente sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, gestito con modalità illecite attraverso una rete di società intestate a prestanome per il impiego e l'occultamento dei capitali. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci spostiamo a Torino ora, dove la Coldiretti ha lanciato questa sorta di giornata dell'orgoglio carnivoro. si sono presentati armati di griglie e sotto lo slogan "Bracciola la riscossa" i 4.000 agricoltori riuniti da Coldiretti davanti al Lingotto in occasione della giornata della carne italiana. Scopo dell'iniziativa è dimostrare che le carni nostrane sono sane e controllate e incoraggiare gli italiani a consumarle, anche per scongiurare la grave crisi che ha colpito il settore, che ha già portato alla chiusura di 12.000 stalle negli ultimi 5 anni. Gli allevatori pagano anche il prezzo dell'allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sul possibile rischio di cancro, che ha portato a un crollo nei consumi. Ma il presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo, parla di informazioni confuse e allarmi infondati. Noi dobbiamo riportare equilibrio e oggi noi dobbiamo partire da un concetto. 9 italiani su 10 vogliono mangiare carne, devono avere le corrette informazioni e soprattutto devono sapere che non c'è nessun rischio vero, reale, in un consumo equilibrato di carne italiana, fatta di qualità e sicurezza alimentare. Miriam Corgio, Red 24, sulle 24 ore, Torino. Adesso ci fermiamo, andiamo come sempre a sentire che cosa succede in borsa, poi nella seconda parte della trasmissione, come vi dicevo, parleremo con un tifoso eccellente, la Virtus Bologna, che probabilmente sta soffrendo molto in questi minuti per il passaggio in A2, si tratta del cantante Andrea Mingardi, e poi parleremo della frana sull'Aurelia ad Arenzano, siamo in Liguria, è una frana che ci vorranno 2 mesi, altri 2 mesi a rimettere in sesto, altri 3 mesi per essere esatti, si andrà a luglio con problemi, perché quella è una zona nella quale passano tanti turisti. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: c'è una nuova grana giudiziaria per il Partito Democratico, Renato Soru è stato condannato a 3 anni per evasione fiscale, si è dimesso da segretario regionale del PD, sentenza ingiusta, dice Grillo, torna all'attacco. Ci sono stati scontri tra centri sociali e polizia per la visita di Salvini a Bologna. Il leader leghista dice: questa città è ostaggio ai delinquenti, sono 4 le persone che sono rimaste ferite. Camorra a Roma, 28 tra ristoranti e pizzerie confiscati al clan, già sotto sequestro dal 2014, ora diventano patrimonio dello Stato. Milano si prepara alla finale della Champions tra Real e Atletico Madrid, la Bologna del basket in lacrime, la Virtus finisce in A2, la borsa. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Sicuramente a Bologna si parlerà certo degli scontri che ci sono stati oggi per la visita di Salvini, ma di certo si parla di un fatto che è storico e doloroso per i tifosi della Virtus Bologna, ossia la retrocessione in A2 arrivata ieri. Andrea Mingardi, cantautore, è uno dei tifosi eccellenti della Virtus. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, com'è? Mi dispiace che mi chiamiate in un momento così. Com'è? Come va? Ma io sarei bene, perché in questo momento sono all'estero e ho di fronte un mare meraviglioso. Però dove? Dove? Sono in Egitto. Ah, fantastico. Devo dire la verità che tutti i colori di questa terra baciata da Dio sono diventati bianco-neri. tutto in bianco. Ma che è successo a questa squadra? Il dramma è tanto più grande quanto lo si rapporti alla storia di questa società. Insomma, perché se pensiamo a Ettore Messina, a Ginobili, a Richardson, a Danilovic, a Brunamonti, a Villalta e a tutti gli scudetti vinti da questo, diventa una roba che potrebbe sembrare, visto che tutto il basket ha avuto, diciamo, a livello europeo, noi siamo diventati veramente una sorta di Cenerentola, e pensare che una società che fa 6-7 mila paganti retroceda mi sembra che sia veramente una bestemmia sportiva. Però quest'anno potrebbe tornare il derby, seppure in A2, con la Fortitudo che è impegnata per i playoff promozione, però da quel che ho capito sembra piuttosto dura. Sì, è come dire, io sono innamorato della mia amante che è Beyoncé, però visto che lei non mi vuole torno da mia moglie. E quindi io, insomma, È così, il problema è che questo sport, gli errori che sono stati fatti sono stati enormi. Questo sport si chiama pallacanestro, non palla vicino al canestro. E quindi tutta la stagione della Virtus è stata connotata dal fatto che non la buttiamo dentro. Ed è una amarga consolazione, al di là del fatto che io non sono anti-fortitudo, perché ho un sacco di amici fortitudini, perché poi Bologna è un paesone, e io mi auguro che loro riescano a venire in A1, ecco, perché sarebbe uno stimolo in più per risalire. Però è proprio brutta questa cosa, la defenestrazione di Renato Villalta, questi presidenti che sono arrivati, poi il tentativo con Alberto Bucci di ridare un'immagine a una società che comunque non buttava la palla dentro a quel famoso cerchio. Quello è. Come nel calcio si tratta di tirarla in porta, a basket la devi mettere a canestro, non c'è niente da fare. Certo. E quindi sarà una rifondazione, diciamo, anche dolorosa, perché io non credo che questi siano giocatori da retrocessione, ma qualcosa è stato sbagliato, evidentemente. L'anno scorso avevamo uno che aveva delle orecchie a sventola spaventone, un certo Hazel, che però la buttava dentro, e credo che la società l'abbia perso per 30-40 mila dollari di differenza, quindi stiamo parlando di veri autogol, ecco. Vediamo un po' come andrà, l'anno prossimo. Ovviamente auguriamo il meglio alla Virtus, perché insomma, no, la storia del basket di questo paese è un pezzo importante, forse il più importante della storia del basket di questo paese, insieme a Milano, evidentemente. Grazie Andrea Mingardi, buon bagno, buona spiaggia, buon tutto quanto, nonostante sia tutto in bianco e nero, da quel che abbiamo capito. Grazie. Maria Luisa Biorci, sindaco di Arenzano, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, per parlare di questa frana che insiste nell'area del vostro comune, è sulla statale Aurelia, e che, come ci scrive un ascoltatore su WhatsApp, ce l'ha scritto poco fa, no? Leggendo il secolo XIX, il giorno dopo riapertura in una settimana, dopo 3 giorni riapertura in 15 giorni, dopo una settimana riapertura tra un mese, dopo 2 settimane riapertura in 2-3 mesi, adesso finiamo a luglio in piena stagione turistica. Sì, tutto vero quello che le ha scritto l'ascoltatore su WhatsApp, nel senso che è stata una situazione veramente complessa dal 19 marzo che è successa. Tanto ha detto bene, questa è una strada statale, quindi la competente di ANAS, che è un ente statale, è sul nostro territorio, è successo su questa via principale di tutta la Liguria, quindi non è un problema del comune di Arenzano ma di tutta la Liguria, e la frana è crollata a terreni privati, quindi diciamo che il comune è purtroppo ospite di questa disastrosa faccenda, senza competenze immediate, diciamo, perché poi alla fine il comune poi le competenze se le può assumere, una volta che però tutti gli enti, a partire dallo Stato fino ad arrivare al comune, non adempiono quello che devono fare. Come mai ci si mette? Deve arrivare a quella situazione lì. Ma come mai ci si mette così tanto tempo? Secondo me è evidente che la cosa che ha complicato più di tutti, perché il 19 marzo, il giorno della frana, 10:28, che per fortuna non è stata una strage, l'abbiamo già commentato in tutti i versi, nel senso che c'era la Milano-Sanremo prevista dopo 2 ore, eccetera. ANAS è immediatamente intervenuta per la rimozione dei massi e per lo studio di questa frana, quindi per vedere, abbiamo interdetto la zona, abbiamo fatto tutto quello che si deve fare nelle situazioni d'urgenza. Dopodiché c'è stato, dopo che giorno, quindi questo è successo al sabato, mercoledì è stata sequestrata la zona da parte della magistratura con l'obbligo di fermare tutto, perché occorreva vedere se il magistrato intravedeva delle responsabilità su questo disastro. Sì. Ora, diciamo che lì è stato il momento in cui ci siamo tutti fermati, perché noi immediatamente, io come centro cooperativo comunale, ANAS come sue competenze immediate sul territorio, aveva già sistemato un cantiere lì con gli operai e la guardianaggio 24 ore su 24, tutti fermi, il magistrato ha sequestrato l'area. Ed è ancora sotto sequestro l'area? È ancora sotto sequestro, perché a quel punto lì, come succede spesso in Italia, ha iniziato una serie di approfondimenti, di progettuali, finanziamenti, chi mette cosa, chi fa che cosa. Adesso siamo arrivati comunque ancora in tempo, secondo me, perché siamo al 3 maggio con il tavolo che c'è stato in regione il 3 maggio, dove abbiamo visto che ANAS ha prodotto un progetto esecutivo, quindi immediatamente cantierabile, ed era requisito per il magistrato per dissequestrare l'area. I finanziamenti sono stati reperiti, nel senso che ANAS paga due terzi dell'opera, un terzo si è assunta la regione l'onere di mettere anche questo, quindi due terzi, un terzo, fatto tutto, quindi finanziamento c'è, progetto c'è. A questo punto troviamo il sistema, ed è quello che è il tema che stiamo sviluppando con la regione questi giorni qui, proprio immediatamente il tavolo è stato il 3, oggi è il 5, quindi abbiamo cercato di capire anche a livello nazionale se è possibile o locale di attivare quelle procedure che consentano una immediatezza nell'effettuare le opere, sì. Quindi non tutte le lungaggini. Ma quindi scusi, che ci sono state prospettate. Scusi, ora dica. Ma ora ci si può lavorare in quell'area o bisogna ancora aspettare il dissequestro e via dicendo? Adesso diciamo che è tutto pronto, sì. Tornano le autorizzazioni, quindi l'autorizzazione del magistrato e soprattutto una via burocratica che consenta di fare i lavori immediatamente. Io continuo a dire a tutti i livelli, e l'ho detto a tutti i soggetti che ho interpellato, io ancora maggio, per tutto maggio combatto perché le persone lavorino adesso, non a giugno, certo. Perché noi abbiamo ancora il vantaggio di 25 giorni prima della stagione, quindi concentriamo tutte le forze in questi giorni qua, faremo parzialmente quest'opera, quello che ci consente di aprire mezza corsia, perché quello il nostro obiettivo è riaprire, sì, questa corsia, perché anche se poco, però è un flusso che comunque togliamo dall'autostrada e che sicuramente, certo, è vitale per la Liguria, non per il comune di Arenzano, oltre a dare un attimino di respiro alle nostre attività che sono in ginocchio, perché obiettivamente naturalmente, come è comprensibile. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, magari torneremo ad interpellarla, sindaco, in ore nelle quali ancora in primo piano, e cambiamo argomento, il caso delle violenze sui bambini a Caivano. Oggi è la giornata nazionale contro la pedofilia. Rifiutare ogni forma di indifferenza nei confronti degli abusi sui minori è il monito del Presidente della Repubblica nella giornata nazionale per la lotta alla pedofilia e alla pedopornografia. Una lotta che per Mattarella passa anche attraverso una corretta educazione in grado di insegnare la cultura del rispetto per l'altro. I numeri raccolti nel tradizionale dossier da telefono azzurro raccontano di un fenomeno in costante aumento. Solo nel 2015, 4.724 le richieste di aiuto di bambini e adolescenti, 241 hanno riguardato abusi sessuali. Una tendenza in crescita rispetto agli anni passati, che diventa ancora più significativa se si considerano le segnalazioni ricevute dal 114 legate alla pedopornografia online. Nella maggior parte dei casi a compiere abusi sono persone conosciute, anche se sono in crescita gli episodi che vedono coinvolti estranei al nucleo familiare. Le vittime in maggioranza sono donne e nel 40% dei casi sotto gli 11 anni, e quasi sempre per ogni bambino abusato c'è un adulto che non parla. Barbara Forresi, curatrice del rapporto di Telefono Azzurro. Noi gestiamo un caso di abuso sessuale e pedofilia ogni due giorni circa. Aver istituito una linea per i bambini e gli adolescenti, una linea che i bambini possono chiamare senza l'intermediazione degli adulti, è stata una soluzione vincente proprio per questo che dicevamo, e cioè che generalmente c'è sempre qualcuno che sa, però molto spesso non parla. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.